buttarlo di dentro. Ma adesso te lo butto. Avanti, break, avanti. Eccolo che mi senti. Ciao Claudio, buongiorno. Sandro Raghero. Sandro Conan. Ehi, non riuscivo a entrare perché gli altri non li sento, non sapevo qual era l'intervallo giusto. Dovevo aspettare a te che parlavi. Lui sa, beh, se non ti sento io. 9-5 sta arrivando, pensavo che riassassero, ma si era Alghero. Alghero, Alghero, sì signore. Com'è la modulazione? Che non posso spingere, se non è mezza. Fortissima, 5 perfetta, amplificata, molto bella. Il segnale 9 più 5, Sandro. Lo sente qualcuno, Sandro Conan d'Alghero? Io lo sento. Anche qua 9 più 5 è clà. Ciao Sandro, avanti. Ciao, buongiorno. Sono aiutivo, so, perché alla fine devo riuscire adesso a risolvere proprio. Qua è 9, ciao Sandro, qua sei 9. Grazie, è ottimo. Io purtroppo posso darti 5, però ripeto, sto spingendo un attimo, sto facendo scaldare una corretta per vedere se funzionava ancora. Sandro, ciao, buonasera. Come ti arrivo io lì? Sei a 4, picchi positivi a 6, è una bella radio da 4, non tiro 5 perché c'è un minimo di fruscio. Magari, ho capito. Andà bene, che zona sei di Alghero sa? Radio di 4. Aspetta Sandrino un attimino perché si sono accavallati Gianni, aspetta Gianni, c'è Riccardino che voleva vedere se arrivava l'Alghero, vai Ricca. Ok, ciao Sandro, ben ascoltato, qua mi arriva Santiago di Sim, una radio di 4. Ciao Riccardo, buonasera, Santiago 4, una radio di 3 per te. Ti ho sentito, ti sei accavallato con Gianni, però Gianni è leggermente superiore, quindi ci va. Ok, adesso vediamo Giulio se arriva. Giulio? Ma io sono piccolino. Ciao Sandro, non so se riesci ad ascoltarmi, però io non sono preparato. Avanti Sandro, se mi hai ascoltato. Sandri, hai sentito Giulio Dollaro? No, purtroppo no, ho visto una tacchetta salire sullo Twitter, ma niente radio. Vediamo un po' se ascolti a me, Sandro. Luca, dai, salutoni, dopo un po' di tempo non ti sento. Avanti. Ciao Luca. Ok, dai. Cioè, leggermente sei poco saturino, comunque già arrivi, dai. Confronto l'altra volta che ribasso, già ti fai sentire. Comunque, ok, dai, avanti Massimiliano, riprendi. Sì, domanda per Giulio. Giù, ma questa antenna non si può tirare su la tua un po'? Sì che si può tirare su, certo. Come no? Si può anche spostare dove era prima la mantova a tubo, certo. Ma non sto uscendo a causa di questo fatto del coronavirus. Se no, adesso non lo so se adesso riesci a ascoltarmi. Attento Sandro, mi ascolti adesso? Hai sentito, so. No, purtroppo no. Sono rimasto in ascolto senza sapere chi stava parlando. Giulio, ha riprovato a vedere se lo sentivi, dai. No, mi spiace. A meno che non ha la possibilità di un aiutino per vedere se riesco a tirarlo qua fuori. Quanti volte stai andando, Giulio? Sono 20, circa 20. E vabbè. No, ma in certi posti arrivo, in certi altri no, ma lo so che per Alghero io no. E poi con l'antenna così bassa è ovvio che non arrivo, no, ma non ho nemmeno quelle pretese, lo sappiamo benissimo. Comunque, va bene lo stesso. Certi altri, ad esempio, chi c'era? Quando c'è Valerio mi sente basso, e anche io sento basso a lui, nonostante che magari mette 300 watt, perciò non lo sento proprio. C'è un altro, Angelino lo stesso, Angelino mi sente discretamente, poi Angelo Buonanima mi ascoltava benissimo, dipende anche dalla zona dove lui, evidentemente io non riesco ad arrivare a coprire tutta la parte di Alghero, così sicuramente così qua. Sì, ma lo so, ma c'ha difficoltà anche Walter da lì, dai punti per Alghero, capito? È un punto, Massimiliano te l'ho detto, è un po' più avanti e magari supera qualche ostacolo, però voi avete questa difficoltà. Va bene, ok, dai, avanti, doppio rumore, riprendi. Ciao, va, vai. Io sette abbastanza bene, Santiago 7 mi arriva qua, dai. Già va bene, interessante sentirsi. Andare. Luca, avanti, poi fai girare per Riccardino. Sì, riprendi Riccardino un attimo che devo controllare una cosettina qua. Riprendi tu, guarda, mi ascolto, mi guardo il messaggio. Ok, riprendo io, va bene. Comunque, scusate, forse l'avevo riaccorta, ma non l'avevo mai sentito entrare, vabbè che io sono da poco in frequenza, l'amico di Alghero. Carino, sono un po' datato io, però l'ho ascoltato in questi giorni, ho saputo che hai montato la radio. Hai una voce molto delicata e non riesci a spingere meglio il microfono, peccato non avere un po' più di corde vocali, no Claudio? Sto per pensare io, guarda, alla fine. Sì, Riccardo, Sandro è un vecchio CB che modulava tanti anni, adesso è un radioamatore anche lui e quindi magari è un po' assente per quello, capito Riccardo? Va bene, cerca di attrezzarti anche dall'altra parte che è un po' che non ti sento, Sandri. Avanti Massimiliano, riprende e fai girare. Sì, sì, positivo, dai, io ho cambiato radio, Sandro. Comunque ti ascolto anche qua bene, qua con questa arriva Santiago 7 e va bene. No, io sento un po' cupo a cosa Riccardo, vabbè. Va bene così, dai, come mi ascolti con questa radio, Sandro? Con questa ma come senti? Sandro, l'hai sentito Massimiliano? Sì, Massimiliano, devi scusarmi in verità, mi ha distratto la mia 50 che giustamente mi ha detto stai facendo casino, cerca di fare ordine. Sì, ok, ho detto che io ho cambiato radio, ho cambiato antenna, anche qua mi arrivi Santiago 7, volevo capire con questa come arrivavo io giù a Alghero. Sì, io infatti posso dare un Santiago, purtroppo, abbi pazienza, un Santiago di 3 con dei bei picchi positivi, addirittura 5, e la radio si sente che è buona, sono io che sono sordo in ricezione perché ho un palazzo al primo piano, in mezzo a palazzoni alti, con l'antenna solo 2 metri leggermente più su del terrazzo. Ok, dai, vabbè, vabbè, comunque dai, l'importante è ascoltarci, dai. O di radio, di... è che purtroppo magari se sale un po' di QRM è un po' difficile per me parlo, ascoltarti, ma comunque non c'è problema, vai Giulio. Ok, riprendo io, ma comunque nemmeno lui arriva qua, qui arriva proprio a livello di QRM, non capisco quello che dice, evidentemente la zona è proprio la posizione, non c'è niente da fare, per Alghero io qua sono veramente penalizzato. Sandro, non so se mi stai ascoltando, ma non credo, perché neanche tu qua arrivi. Arrivi bassissimo, ma è incomprensibile in radio, nella maniera più assoluta. Santiago 2 appena appena si muove la lancetta, niente di più. Va bene, vai, riprendi qua. Cappa, ok, va bene. Zona, zona, va, va. Gianni, ti ho risposto, se vuoi replicare, ogni tanto guarda il telefono. Va bene, quindi chi c'era? Gianni, riprendi Riccardo, dai, riprendi, aspetta Riccardo, Sandro, Riccardo sta usando un microfono come questo, però purtroppo è chiuso, capito, non in posizione amplificata, perché se lo metti in posizione amplificata fischia, ecco perché lo senti basso del radio, altrimenti va bene, vai Riccardo. Ok, sì, ho sentito Fabrizio, mi ha detto, dalle mie BP5, perché ha detto che questo lo ripara, perché l'aveva sistemato per questa radio per darmelo, e intanto stava cablando il MDV5 per il cable. Ok, hai visto? Quindi parla con lui quando hai problemi, perché noi non siamo abilitati, come ha detto lui a me, di farti toccare niente. Ok, chiama lui sempre quando hai problemi, non stare a toccare e a sentire, abbassa, tira, molla e fai. Ok, io te lo sto dicendo perché queste sono parole che ha detto lui. Quando hai problemi chiami a lui e già interviene lui. Io quello che posso fare e quello che possiamo fare noi te l'abbiamo già detto. Lascialo così e poi ti arrangi con lui. Avanti doppio room. Doppio room. È andato dentro. Ecco. Niente da fare, doppio room. Giulio, a te il cambio, fa entrare il break. Sì, lo faccio entrare subito, avanti il break. fino a queste parti. Una buona sera a tutta la ruota. Buonasera, non ho capito che sia, avanti. Avino da queste parti. Ciao Giulio, un saluto a tutti. Danilo mi sembra che hai detto. Ciao Danilo, ben ascoltato. Non molto, perché stai arrivando basso di segnale, strano, perché tu mi arrivi 9:20 di solito, adesso mi stai arrivando Santiago, sì, vabbè, comunque, evidentemente non sei a casa. Avanti, chi c'era? Massimiliano si è sentato un attimo, avanti Riccardino. Ok, sono a Danilo, ciao, ben sentito, e cambio per far sentire a Danilo. Mi correggo, Gavino, non avete ascoltato bene. Gavino, ciao Riccardino, ciao. Un saluto anche a Claudio e a Giulio, che non mi ha riconosciuto. Scusa, no, avevo capito male allora. Ciao Gavino, comunque. Ok, ciao Gavino, sì, infatti non ti avevo riconosciuto. Adesso ho aumentato il volume, adesso già sei tu. va bene, dai, buon lavoro comunque, perché sicuramente si è al lavoro. Avanti, riprendi Gavino. Io sono al lavoro. Riferito all'amico Gargero, come mi dicevi? Un attimo, sono al telefono, vai Giulio. Sì, non sta parlando, vero Gavino? Non sta parlando Gargero, perché io non lo sento. Non so se lui mi sente. Che il nome attivo com'è? Sandro, so che si chiama Sandro, ma io non lo sento, è troppo basso da me. Sandro, mi senti? Sandro di Alghero, Gavino da Sassari, mi senti? Se non mi arriva, non mi arriva. Massimiliano? È assente, in questo momento Massimiliano è assente, deve essere al telefono. Lanciamo il microfono a Gianni. Gianni? Ia, sono qua. Sto andando sempre bene, sì, o sto andando male? Sto andando benissimo, non male, benissimo. Riprendi ancora, vai. La radio, se non fosse perché prende splatter, guarda, è una bomba. È bellissima come ricezione, come tutto. Perché gli ho messo la colonnina di quelle col filtro, cazzo, ma sai quanto si sente bene? A proposito di colonnina col filtro, sai che quando io ero intenzionato da un po' di tempo a farmela arrivare una di quelle, ma funziona veramente oppure è solo una questione di pubblicità che scrivono? Di quale stai parlando Giulio? Io ho quella della CTE, c'ho quella grande, quella no, si funziona veramente bene, si sente benissimo dalla cassa. Sto parlando di quella colonnina che loro dicono che c'ha un filtro, c'è l'interruttore e stacchi, e cioè metti in azione il filtro e ti elimina il QRM. Io qualche dubbio ce l'ho, però se l'hanno scritto così, l'ho visto tante volte a computer, e non costa nemmeno molto, non arriva nemmeno a 20 euro, non lo so, però ho qualche dubbio, la verità. Guarda, ascoltare si ascolta benissimo, io quel filtro lì, sì, c'è anche da me, però non l'ho mai usato, dico la verità, ma si sente, ce l'ho inserito, c'è on e off, io ce l'ho inserito e va benissimo, si sente benissimo tutto. Sì, ma voglio dire, il QRM te lo abbassa, te lo elimina, cosa fa? Sto giù, io qua QRM non ne ho mai avuto il QRM, mi sale a uno proprio, è basso il QRM qua, non ne prende molto. Vabbè, oggi nemmeno io ne ho, sto per quello, ma oggi io sto parlando di QRM 2,5 oggi, per cui, però, quello ho avuto sempre qualche dubbio, quando QRM comincia a essere forte, utilizzando quella colonnina, sarei stato curioso di capire e sapere se effettivamente è ottima o se è solamente una questione di pubblicità quella che scrivono, perché ho detto tantissime volte che abbassa il QRM, sarà, ma io non ci credo, comunque. Avanti Gabino! Eia, un saluto a Gianni. Ma è cambiato apparato Gianni? Gianni, rispondi a Gavino. Scommetto che sta cambiando di nuovo. Sì, ha cambiato. E ha messo il 48, ha messo, sicuramente quello. perché ha detto che prende splatter, l'apparecchio che prende splatter è proprio quello, il 48, però funziona bene, come modulazione è straordinaria. Sì, è abbastanza, è buona come modulazione. Secondo me va meglio quello. Infatti come modulazione è fortissima. Vediamo un po' se è rientrato o Claudio o Massimiliano. Avanti, uno dei due. Siete rientrati? No, non ancora. Avanti, Riccardi. Ok, vado avanti io. Scusatemi un attimo che mi assento un attimo. Va bene, d'accordo. Sì, ma è così, il 48 funziona bene, in trasmissione è eccezionale, solo che è poco filtrato e quando c'è qualcuno vicino è un problema perché non riesce ad ascoltare gli splatter. È così, Gavi. Eia. Ascolta giù, hai un leggero sibilo, adesso non so se dipende dall'alimentatore o cosa. Vai sulla portante, che voglio capire cos'è. Ecco. Aspetta, intanto spengo la televisione, perché probabilmente è quello. Ecco. Andati. Ma non ci arrivo. No, c'è la ventola dell'alimentatore. La ventola dell'alimentatore, Gavi, dovrebbe essere. Sì, è possibile, possibile. Sì, vicino ce l'hai, no? È vicinissimo, molto vicino. Anche, può essere anche la ventola della radio, che è ancora più vicino, per cui è a 10 cm il microfono della radio, sarà anche quello. È lo stesso problema che avevo a casa io, infatti ho dovuto distanziare l'alimentatore, perché entrava un sibilo enorme. Poi questi microfoni sono abbastanza sensibili, entra tutto, capito? Infatti il microfono progettato è così. No, questo, tu immaginati, adesso ce l'ho sopra il comodino, ascoltami, sopra il comodino c'è sia la radio che il microfono, più vicino di così, tu sai benissimo quanto può essere grande un comodino, è tutto lì. Naturalmente l'alimentatore è distanze a circa 80 cm, là, perché in un tavolino che ho qui a fianco, l'ho messo in basso proprio per cercare di tenerlo più lontano possibile, ma c'è la ventola perché è un switching e dunque anche quello contribuisce a fare rumore. Ho capito che non c'è molto spazio in quella cameretta, sicuramente. In effetti qua dove ho la stazione spazio non ne ho, ma volendo potrei trasferirmi su una mansarda, c'è tutta una mansarda a conto mio, ma non ho mai pensato di farla lì la stazione. Lì è abbastanza spazioso e poi sono anche isolato dal resto della casa, per cui ma non ci ho mai pensato, perché qua mi accomodo tante volte la notte quando sono a letto, mi metto le cuffie e ascolto fin quando c'è gente. Ho fatto sempre così da un bel po' di anni, dai. Eia. Chissà se chi è rientrato. Massimiliano, ci sei? Massimiliano? Claudio? Sì, sono qua. Favella qua. Sto pensando. Vabbè. Ok, avanti Riccardo. Si è allontanato Riccardo. Vabbè, pensando. No, quando devo pensare qualcosa, qua, la notte prima di addormentarmi, perché la notte porta consiglio, perché al silenzio c'è di Dio che pensi, e così ti vengono in mente tante cose, e magari tu completamente hai dovuto mangiare senza dormire. Vai, qua. Vabbè, sono cose comunque che dispiacciono, perché come tu sai questo canale era il fiore all'occhiello, non ci ha mai disturbato nessuno, abbiamo sempre trasmesso, fatto dialoghi eccetera. Da un po' di tempo a questa parte si è sporcato tantissimo, importanti litigi, diverbi e tantissime altre cose. Vabbè, comunque speriamo che passi, dai, tutto qua. Quindi Riccardo si è spostato, Massimiliano si è spostato, ciao Gavi, non ti ho ancora salutato. Me ascoltato. Il cambio per Luca, allora, Luca, riprendi. Ho ripreso, eh. Allora, Luca non ha ripreso, ma ci mi riprendi tu, dai. Sì, dai, nel frattempo ho sentito Gavino. Ciao, Gavino. Non so ancora se è entrato qualche di un altro, là. Sono rientrato adesso, ero giù. Stavo facendo una cosettina, là. Ok? Va bene così. Di cosa stavate parlando? Ciao Massimiliano, ciao Claudio. Stavo parlando dello spazio che ci abbiamo modulando. E niente, e anche del problema dell'alimentatore con la ventola vicino. Con Giulio, capito? Lo so, purtroppo l'alimentatore è un problema, però non è che dobbiamo venire fuori di casa con questo alimentatore. Gli alimentatori non sono un problema, basta comprare un alimentatore a trasformatore stabilizzato e risolto il problema. Noi che ci caffusi da 50-60 euro, prendi un bel alimentatore buono da 40-50 ampere, lo paghi 0,50-0,70 euro, vedrai che i rumori non lo senti più. Ma che mio, si sente? No, Claudia, è lontano il tuo, capito? Tu da dove moduli gli alimentatori? Ce l'hai almeno un paio di metri lontani, capito? Sì, sono fatto la base proprio alimentazione, io non ne ho niente qua alimentatori. L'unico era quello di linea, ma l'ho tolto, però è a trasformatore, quindi non a ventola. Questa cosa di mettere l'alimentatore vicino alla radio è una cosa che non si usa più, non si usa perché ti porta dentro solo dei disturbi e basta. Lo so, però Claudio, a volte diciamo che uno usa anche lo spazio che ha dentro casa, capito? C'è anche da dire quello. Purtroppo non tutti abbiamo una camera dove abbiamo solo la radio. Noi ci dobbiamo adattare un po' negli angolini che abbiamo, capito? Capito, Pio. Però se allungate un pochino più il cavo, l'alimentatore lo mettete più lontano possibile, facendo un banchetto, una cosa, insomma, più lontano possibile. E non penso che ci sia tutto questo casino, perché Giulio si sente tantissimo con la radio così. Tu un po' hai migliorato, Gavino ha migliorato lo stesso, però ne sento altri che hanno sempre questo fruscio di vento, ma ripeto, non è un fruscio, un disturbo, è la ventola. Fa parte del contenimento delle radio, quindi se c'è un alimentatore c'è una ventolina, la senti, o una radio che ha una ventola un po' più rumorosa si sente, e quello è il gioco, non c'entra a fare. Ma sai cosa si potrebbe fare, Claudio, o anche Giulio? Metterci una batteria, una 60 ampere, con un caricabatteria e non senti niente. E ti rimane col caricabatteria dentro gas, vabbè, da reddo. Uno di quelli piccoli, Massimiliano, o quello che ho io qua in lab, capito? Un Sirio piccolino, mi dice la carica e tutto. Ma io prima ero così quando ho iniziato, carica batteria e due batterie di camion. Esagerato, due batterie di camion, ok. E quelle ci avevo, le ho recuperate. Ma senti Giulio, com'è questo microfono? Dopo vi dico che cosa sto usando. No, ma c'è sempre il problema della ventola anche della radio, e quello, il problema è anche quello, non è solamente quello dell'alimentatore. Se c'hai il microfono vicino alla radio, ecco che, scusate la tosse, ecco che si sente lo stesso la ventola della radio, dunque non è che lo puoi eliminare definitivamente. E com'è questo microfono che fa schifo? Non va meglio il microfono, non si sente, si sente pochissimo il sibilo. È più basso il microfono. Ma se mi dico, secondo te cos'è questo? Questo potrebbe essere l'HB23 con un altro microfono. No, questo qui è il K con l'M300. Mettila l'eco allora. Non lo so se funziona, aspetta. No, ma non si intende però l'alimentatore. Non si sente l'alimentatore. Adesso ho aumentato un po' l'eco, si sente? No. Allora vuol dire chiuso da dentro, dai. Perché l'eco già usa, ma non mi piace. Vuol dire l'avevo già chiuso da prima. Perché l'ho tolto stamattina questo, ho fatto la prolunghetta e l'ho adattato qua. Va bene, Avuglia. Però è nella forza dell'MP4, vero? E non te credere, mi. Oh, è forse anche questo. Andare. Avanti, Claudio. Va bene, solo la timbrica cambia e basta, però anche questo già funziona bene, Giulio. Funziona benissimo alla grande, dai. Ti asciuga, tutti facendo esperimenti con i microfoni. Ottimo, ottimo. E io non ne ho un microfono, ecco, già l'avevo attaccato a Eogar, se funzionava. KK, vediamo un po' se è rientrato Riccardino, se no riprendi già nel doppio room. Riccardo? Ah, è vero, c'è anche Sandro, io non ti ho rilanciato perché pensavo ti ero allontanato. Riprendi, sa. Sì, infatti, scusate, ho avuto un attimino un problemino con la radio e sono stato out per qualche secondo. Mi approfitto, ragazzi, se mi sentite vi saluto, siete stati gentilissimi, togliendo un controllino, cerco di sistemare la stazione, vi faccio sentire meglio. 7351, ciao Luca, ciao Gianni, ciao Giulio, ciao Riccardino, ciao Claudio. Salutoni, Sandro Ancona Larghero, riprendo Claudio, quindi sento direttamente la risposta. Sono sicuro di sentirti bene, mi metto io a piombo io meglio con l'antenna più alta. Ciao, presto, salutoni. Ciao Sandro, un abbraccio, fatti sentire, grazie per essere entrato a salutarci. Avanti, Giulio, vabbè, ti saluto a parte di Giulio perché non lo senti, il cambio per Massimiliano per salutare Sandro, vai. Sì, dai, ciao Sandro, buona serata, buona continuazione della giornata, ci sentiamo alle prossime, dai. Ok, vai, doppio room. Ok, dai, riprendo io, ciao Sandro, salutoni, alla prossima, dai. Già siamo qua noi sempre, se non ci rompono le scatole, avanti Gianni. Gianni non c'è, riprendi tu, fai girare Massimiliano per Natalino e Natalino fa girare per Giulio e avanti Giulio. Gavino, aspetta, Gavino, guarda se senti a Sandro D'Alghero. Poco fa ci stavo provando. Sandro, mi senti? Sandro di Alghero, mi senti il Gavino da Sassari? No, non ti sentono. Sandro, ciao Angelini. Sandro, hai sentito Gavino? No, negativo, Giulio negativo, niente. Giulio negativo, non arrivi all'Alghero. Avanti Angelino, buonasera. Buonasera a tutti, eccomi qua. Stiamo facendo due chiacchiere se ce le fanno fare. Buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Giulio, io, Gavino, Gianni Doppio Room, Luca, Riccardino e Massimiliano Bulldozer. Ok, allora il cambio per Gianni, riprendi se ci sei, se no riprendi tu Luca, fai girare, non so più a chi lanciare, non fai più nessuno. Ciao Angeli, buonasera, salutoni, là. Cavagava, avanti Massimiliano. Sì, positivo, ciao Angelo, buonasera anche a te, ben entrato. Massimiliano da questa parte, Giulio, l'ho sentito Angelo? Sì, sì, sì, lo sento. Ciao Angelino, ben ascoltato, come va? Buonasera a tutti, sì, sì, va bene, dai, stavo facendo della roba qua, sperimentando, dove impegnato il pomeriggio. Ecco, ho provato a accendere, ho sentito che c'era la notte, dai. Movimento anche a 620 e niente, va bene, va bene, quindi ti dico. Ok Angelino, tu sei un grande lavoratore evidentemente. Fai bene, fai bene, fai sempre così, così almeno non devo fare niente io. Vabbè, dai, vai Gavino per Angelino Alghero. Ciao Angelo, una buonasera, ben ascoltato. Buonasera anche a te, ti sei un pelino basso di radio, tanti anni di 5, ti sento basso però, mi dispiace, solo di radio. E a me Angeli, come mi ascolti? A lui, a Giacomini, tanti anni di oggi tu, radio super 5. Cava, cava, dai. Andare, buonasera a tutti, dai. Mi sono staccato un attimino dal baracchino perché mi è venuto un bruciore di stomaco, sono dovuto andare a mangiarmi una mozzarella per passarmi il bruciore perché sennò a una certa ora mi sta facendo così. Vabbè, ma non riesce a tirare nessuno un po' l'elettricità con la radio. Vabbè, Massimiliano, sicuramente sì, la devo aprire, però anche la posizione, dai, la posizione bassa. Ho capito, già che c'è la posizione bassa, in più c'è anche la radio bassa, cazzo, se riesci a tirarla su di modulazione la cosa è un po' diversa anche, no? Che radio stai usando, Gavi? È un Intec M550, è quello che c'ha anche Bombolino. Capito? Ah, ho capito, sì sì, l'ho avuto anche io quello lì, va bene con l'apparato, anche con l'eco mi pare. Sì sì, anche con l'eco, sì, è completo. Attacca l'altro, vedi come arrivi a Polotto, va ad Alghero. Posso attaccarlo? Uno è qua e uno a casa già. Ah, tu sei al laboratorio adesso, cosa me ne era bizzarro, non ho guardato manco lo Smith. Guarda lo Smith e vedi un po' come ti arrivo. Aspetta che mi metto sospicitoso, che se no non ti posso dare il controllo. Prova. Sicuramente è molto ma molto più basso rispetto a casa. 1-2-1-2, prova radio. E non arrivi male, sei 9-10 qua. Eia. In alcune zone arrivo bene, Alghero ad esempio sì, Alghero è un po' scoperto da qua. È un laboratorio che antenne hai messo? Una Gran Plain c'è, una Gran Plain piccolina, piccola ma sincera, dai. Già va bene, già va bene. Avanti Claudie, oppure Riccardino sei rientrato? Sì, vado avanti io, saluto anche a Natalino che è entrato, stavo facendo ascolto, stavo aspettando che non rilanciavate qualcuno perché sennò poi entravo al momento sbagliato. E dov'è Natalino, Ricca? Cosa? Natalino dov'è? Laboratorio, a quanto ho capito. No, è Gavino, non Natalino. Prima era entrato Natalino, Gavino l'avevo salutato prima. No, no, è Gavino è il laboratorio, non è a casa sua. È entrato Angelino. Ah, Angelino, sono un po' per rimbambito. Vabbè, là, può succedere, là. Vai Angelito, il rilancio per Riccardo. Buonasera Riccardo, mi sono tutto, sono già una moletta qua, andrà bene, bene, bene, bene. Come stai? Ti rilancio a te, vai Riccardo. Bene, sto bene, che mi sono svegliato, stavo dormendo tutto il giorno con la visurazione, quindi mi sono svegliato da poco e sono rimbambito, quindi è per questo. Sì, dai, andrà bene, andrà bene. Mi ha sembrato aver sentito Sandrino, Sandrino è così, D'Alghero. Sarà piacere, ma sono impegnato in altro adesso. Bella, bella, ciao Sandrino, ben sentito anche a te, dai. Sto facendo meglio quel che ho, poi vado molto a fare le vesti, dai. Sì, sì, positivo, positivo. No, volevo chiedere, clama con la radio, il processore inserito. Claudio è sparito lo stesso. Beh. Insomma, intanto ogni tanto io vi pare che uno, va, vai Giulio. Ok, no, io non sono sparito, già sono qua. Sì, no, ma non credo, non credo. Il microfono è, perché stavano facendo anche delle prove stamattina. E il microfono probabilmente di modulazione. Basta chiedere a Riccardo, Riccardo, guarda lì c'è un tasto che c'è scritto processore, guarda se è schiacciato o se è tirato in avanti, su. No, il processore è innestato. Inserito è? Positivo. Ok, vabbè, no, è il microfono. Il microfono un pochino cupo e non lo so, prova a allontanare la bocca dal microfono un pochino eventualmente, vediamo se ti sentiamo meglio dopo, dai, al prossimo passaggio vediamo quando ti rilanciamo, va bene, dai, avanti Angelino. Angelino, no. Prova adesso come ti sto arrivando con questa radio qua, guarda, 1, 2, 3, prova. Prova. Santiago 8, ma la radio si è abbassata, già. Si è abbassata la radio? Sì, è un po' più bassa, la cava, e ora? Ora? Forzatilo, però va. Io sono qua, Cava. Bisogna infilarci il cacciavite lì, aprire il trimmer della modulazione. Positivo, frate, che mi è? Oh, ma chi si chiama Angelino da Alghero sta trasmettendo, sta modulando. Che io, Gavri. Angelino, tu mi arrivi 7 Santiago e 3... no, sono 7, 5 Santiago e 3 di radio. Angelino, rispondi a Gavino, 3 te li arrivi Santiago 7 e 3 di radio. Positivo. Sì, però ogni tanto sono importanti, quindi non faccio al tempo, magari così c'è qualcuno. Scusa, lo sento, mandaci in laboratorio, perché non ti porti il microfono di tavola? Modificare questo microfono, dovrà modificare Claudio. Hanno spinto a 5 punte e poi è alimentato dall'apparato. Devo trovare lo schema anche di questo. Sicuramente dentro la scatola devo cercare, capito? 5 punte? Aspetta che controllo l'armadio. Massimiliano, quella foto che ti ho mandato, quante punte è? Massimiliano, quante punte è quella foto che ti ho mandato? Ha 5 punte, ma ce le ha tutte laterali, questo è diverso. Ah, l'inverso è. Ma è dall'altra lingua il tuo microfono, e il microfono non serve lì. Non te ne fa niente, capito, là è del Dawe Up. Il canale, giri a mano, lo smonti qualcosa, a 5 lo compri, una a 4 glielo metti. E ci metti un CTE, ci metti un Midland, ci metti quello che ti fa e ti piace. No, voglio fare la modifica, faccio uno spinotto che si può innestare uno a 5 e l'altro a 4, con una prolunghezza. Faccio prima. E fare la modifica, però metti il cacciavite e apri l'LC con la radio. È inutile che tu metti un microfono buono quando la radio è bassa. Vuole tirata su di modulazione con la radio. Cambio! Positivo, dai! Vai, Lugarie, cambio! Cambio! Ascolta, ma da sabattino lo mandiamo? No, oggi si manda sabattino a vacca, noi che calcoli di là, No, dai, fa da bravo. Allora, da sabattino? Sì, a sabattino, sembra baghidussi, non è problema, trato qui subito. Allora, due computer, due telefoni già a dama. Che cazzo, ma come ci sono rimasti più? Tutto venduto. Venditi anche questa radio modificata, io mica la vuole Angelino. Oh, io sto vendendo roba, se vi interessa. Roba buona, guardate. Eia, buona. Sto vendendo cipria, se interessa qualcuno, no davvero, Sto vendendo un po' di roba che c'ho, Un MC80, poi sto vendendo comunque. Contattatemi, sto vendendo. Dici che cosa? Non devo dire niente qua, contattatemi. Non dire niente, è chiaro, non dire niente. Io ti ho già contattato. Va bene, quella è l'offerta che mi hai fatto? Sì, va bene. Ottimo, va bene. Tengo in considerazione la tua offerta. E vediamo al ribasso, se c'è qualcuno che offre di più va bene, se no te la giudichi. Va bene, ok, però non dire niente quello che hai, Se no fanno la fila e prendono il numero. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi dico solo una cosa, non mando foto a nessuno, ma qua per terra c'è un mare di roba da vendere, un mare, roba molto interessante e appetitosa. Angeli, quella è la materia prima. Purtroppo qualcosa la devo anche regalare. La devo anche regalare perché, anzi, l'ho già regalata. Però è come dicono a Sassari, c'è una cosa che il piatto va e l'altro viene, capito? E quindi è meritevole fare queste cose. Per il resto c'è un bel di roba in vendita, parecchia, molto appetitosa. Mi è arrivata un'altra scatola, un altro cartone pieno di roba, molto appetitoso. Benvenuta, mi tocca. Guarda, è passato il corriere neanche un'ora fa. Scatola e ti dico che c'è veramente roba interessante, molto interessante. A parte vado armato e birro i microfoni, ma questi non sono microfoni, questi sono radio. Radio e ancora microfoni, ancora strumenti. Mamma mia come sto. Allora mi devi chiamare. Angeli, prendi la macchina e scendi a Sassi, non so cosa dirti. Cazzo, ti mando 10 euro, dammi la posta IP, ti carico la posta IP. Cazzo, non c'hai 10 euro di benzina, minchia. Non fare come ha fatto un amico nostro, Gianni, non ridere. Non ridere Gianni. Un amico nostro è andato a prendere una radio e si è fatto lasciare di prendere la benzina. No, non arriviamo a quello, dai. Ah già, com'era quella? Dubbio. Il gas Giulio ci ha fatto pagare. Guarda, è successo a me tantissimi anni fa, prima di stare con Marino, una tipa così, scherzando, è venuta qua a conoscermi, solo che mi ha detto non c'è soldi per la benzina. Vabbè dai, sali, te li do io, ho 5 euro, 10 euro, se mi ricordo se quanto avevo dato, e li ha presi. E baciuccio qua. Ehi, fate un salto, fanne anche due di salti. Ma va bene, dai, va bene. Sai che c'ho la casa io, Alghero? La casba, la casba. Va bene, non è proprio Alghero, da. Nella strada di Calabona, lì per andare a Bossa. Ah, ok, andando verso la Speranza. Bravo, un po' prima della Speranza, lì. Io c'ho la casa. Tutti i miei zii sono di Alghero, sono tutti pescatori, sicuramente li conosci, no? Massimiliano. Eia. Se vedi cosa c'è dentro quella scatola. Che cazzone, sì. Ma da foto, aiuta. No, non ci mette, non ci tenere sulle spine, cazzo. Se mi vedete tutti in giro, non lo vedete che se mi vedete in giro. Ehi. E te ci occupiamo in giro, sì. C'è la radio che sono andato a vedere a Olbia ed era tutta maniata dalla regione di Nova Nova. Che sciuga, sai cos'è questa cosa qua? L'hai vista? Ah, quello è il Simba. Che bel davvero, nuovo. Un altro giù, aio, riprendi. A me mi interessa solo il DAC, la vuoi tutto un resto di un boidini. No, Giuliè, il DAC non si tocca. Non si tocca, guarda, Daniele mi ha dato il microfono per il DAC e l'ho usato anche stamattina, non si tocca quello. Credetemi che quella è una radio che non posso dare assolutamente. Cazzo, ma ci vediamo, ma bella, eh? Ne vedi il messaggio, arrivendo, uia! E poi ce ne sono altre che sono sotto, questa è tutta celofanata nuova. Quella mi può interessare. Non ho preso proprio, non esce niente da qua, non l'ho preso per vendere. Io pensavo che la volessi vendere, che tu ci hai detto che c'è un po' di roba interessante, pensavo la volessi vendere, scusa. No, interessante per me, non per vendere. Assolutamente, già. Devo fare nuovamente e già non ci sta più niente di quanto ne ho di nuovo, in giro di una settimana. Ho montato la base, Massimiliano, hai visto? Eia. E poi già, non ti sei preso il 3009 tu? No, oramai mi è passata la voglia, perché cazzo, sono telefonate e cose, mi hanno detto che c'è praticamente questa storia del virus, Luca che non spediscono, questo e quell'altro, mi è passata un po' la fantasia. Te ne ha preso uno Luca, cazzo, stamattina l'ho visto in foto, gli ho mandato, al volo si l'ha pigliato, ma sai che vuol dire fiammante, Luca lì è. Lo so, l'ho visto, me l'ha mandata anche a me. È nuova, eh? Bellissima, nuova, se funziona bene come nuova è di lusso. L'unica cosa che c'è è che non c'è il microfono originale, perché ha un altro microfono, però vabbè, quello tanto lui userà l'MB5 sicuramente. Vedi cosa di nafutti il microfono già, non si può perdere una radio del genere, baldezzino di microfono, dai. Si usa un più 4, un più 5, un TARN, un altro microfono, già si trovano i microfoni. Quello che hai risparmiato nel comprarti la radio nuova, ti metti 50 euro a porta e te lo compri il microfono amplificato, e si andendi. Sì, ma ce l'ha anche modificata, ce l'ha, se mi più 5 può mettere quello. Eia, va bene, ok, dai, riprendi Gavi. Io sono in ascolto, dai, sto facendo una cosa velocemente e poi chiudo. Dai, sono in ascolto, dai. Va bene, ok. Luca, ci sei? Se non riprende Luca, riprendi tu, Claudia. Sì, un attimino che mi stanno mandando dei messaggi su WhatsApp, dai. Facciamo riprendere Riccardo. Ah, vedi qualcuno che ci pensa, che ci sono ancora. Grazie, Giulio. Quando mi incontri mi devi pagare il caffè, va bene? Va bene. Sto ascoltando intanto che non mi rilanciavate e niente. Stavo ascoltando, interessante molto la roba che state vendendo, mi sa che possiamo fare una casa d'asta. E la vuoi fare un'asta? Facciamo un'asta e facciamo offerte della tua roba. Mi sa che le aste sono finite, sono tutte rotte. La casba, la casba! Giulio, dimmi, tu hai avuto anche il Persipson, quello in legno, ti ricordi che c'aveva l'orologio, che c'ha l'orologio digitale? No, con l'orologio ho avuto solo l'Inuit. Meccanico, come il Polmar, così, questo è digitale, come il Royce o Massimiliano. Sì, vabbè, anch'io ci ho avuto l'Inuit. Ce l'aveva meccanico. Bella è quella che abbiamo fatto a Giuseppe, tua cos'era quella? Quella era un Texas, cosa cazzo era? Buono, me la metto. Era la Fayette. Però prima di quella c'avevo l'Inuit, come quello che c'hai tu. Sì, quella la Fayette Telsat, sì. E vedi, a quella Fayette ci andava bene quel microfono che ti ho fatto avere stamattina, 5 punte, ti ho mandato la foto. Oppure ci va benissimo un M300, perché io ce l'ho, quel baracchino lì io ce l'ho, il Telstar. Aspetta, questo è un base, eh? No, quello che ho io è veicolare. No, questo è base, questo è un base. Quello che di Massimiliano che avevamo fatto a Giuseppe, che abbiamo fatto a Giuseppe, ce l'ha ancora. Quello, a proposito, ora telefonaggio per dire un bigio, perché intanto non lo sto usando quello. Quello è un base, però... Oggi ti dico che quella base lì c'ha il microfono come l'Intec 34S, ok? Quel baracchinetto piccolo che c'ha l'innesto senza la rondellina, diciamo, per stringere sulla radio, capito? Ce l'ha in castro. Sì, ce l'ho avuto io fino a poco tempo fa e poi avevo cambiato con Giuseppe, come si chiama? Quello che una volta aveva dedicato alla stazione, non me la metto più. Vabbè, già mi avete capito, dai. Giuseppe, via Baldeda in fondo, quella zona lì. Avevo cambiato con l'Uriband, sì, avevo cambiato base. Lui aveva avuto quello lì perché gli serviva per la macchina. E poi ha fatto il giro, ha fatto con la radio, è finito anche in mano anche a Graziano, poi non so, alla fine credo che ce l'abbia venduto anche Graziano. E quello era il mio, quello che c'è vale un giro. Quello, sì, quello con i due strumenti rotondi. Sì, era il mio quello, l'avevo preso da internet, l'ho dato prima a Bombolo l'ha dato a Leoncino, l'ha dato e ha fatto un aiuto, questo apparecchio. È bella quella, il Madison stai dicendo? Il presidente, quello lì, quello che stava dicendo Giulio, con due strumenti. Il Jackson, il presidente Jackson? No, il base, è della presidente sempre. E c'è il base, il presidente Jackson e il presidente Madison, forse quello grigio che l'ha portato qua, gli ho fatto io le connessioni dell'MB più 4 Giuseppe, è il Madison. No, è Washington, non Madison, è Washington. Bravo, scusa, Washington. Sì, Washington Uniden, sì, quello. È bello, c'ha gli strumenti rotondi, è bella quella radio. Bella sì. L'unica pecca che non ha l'FM, perché si sa, tutte le radio americane non hanno l'FM. Massimiliano, cosa si può valere con la radio che abbiamo dato a Giuseppe di Alghero? Sui 150 euro. Anche perché quella c'ha i canali, i 120 canali, se ti ricordi. Sì, me lo ricordo perfettamente. Allora andiamo a vedere vivo. Andiamo a vedere. Così mi dice pure lineare. Aspetta, ti devo chiamare però prima, aspetta. Cazzo, quando tu lo devi chiamare c'è qualche complotto. Serio. Cazzo così, mamma mia, cazzo. Come sto? Mi via, Coco. Vabbè, ma io chi tu gasisci, parapapa. Ti hai comprato un 3009, ti volevo regalare uno di questi base, cazzo. Ma... Vai, figlia, vai, regalare uno di questi base. Fammi le foto, fammele vedere almeno, no? Visto che non me lo puoi regalare, fammi le foto. No, vi tengo in suspense. Fatemele togliere, pulire, mettere bene e poi vi faccio la foto di tutti i vintage e così mi dite se vi piace. Ma qua non vedo una brittella da regalare. sì che ce l'ho, perché è una caldarella ciò. Ma ho giù, ti volevo chiedere, ma di Graziano sappiamo niente, è sparito, non l'ho più sentito. Non è molta voglia, non è molta voglia. Anche perché un pupino a piazzare il baracchino, perché tutte le volte lo deve staccare, non so, forse perché la moglie non lo può vedere in mezzo, dai, diciamo, così in giro il baracchino, e allora ogni tanto voglio l'attacco, come te lo sento sempre per telefono, ma voglio è sempre il solito personaggio, sempre bell'arrivo, sempre molto umoristicamente molto valido, per cui non è un problema, già sta bene, dai, già sta bene. Sì, ma allora qua hai rimesso l'altra parte del banco, quella che avevi già tolto. Sì, giù, perché sennò non mi ci stanno, voglio fare una cosa bella, come mi ha detto Massimiliano, però non nel lato finestra dove l'abbiamo messa prima, sull'altra parete, quindi una parete, no, che sai, quella dove c'è la cerniera per capirci, solo tutta amatoriale, poi mi giro dall'altra parte con la sedia, la stessa base, quella è solo vintage 27 baracchini. Ah, ho capito. Ma allora cosa hai fatto? Hai aggiunto qualche piede? Hai aggiunto? Perché se no un piede ti manca. No, ne ho comprato quattro uguali, Giulio, quattro uguali, perché grigi non ci sono più. Quelli che ho, normali, quelli non ci sono più. Allora ne ho comprato quattro che purtroppo sono neri, però sono uguali, precisi, identici. Ho capito, sì, ho capito. Vabbè, è uguale. Il fatto che non siano color alluminio, o come vuoi chiamare, o cromati, insomma, come vuoi. Va bene lo stesso, non c'è problema. Hai fatto bene. Così ci puoi passare tranquillamente per arrivare alla finestra. Sì, se no è... perché anche quella lì è più corta, ti ricordo che l'avevamo fatta leggermente più corta. Aspetta Massimiliano che poi lo leggo il messaggio, rilassati. E se no metti il caparizzo. Ok, sì. E mi viene anche bene perché mi giro con la stessa sedia, capito? Ed è una cosa fatta veramente bene. Sì. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, purtroppo ne ho dovuto prendere quattro di piedi, Giulio, perché come sai bene, il lavoro l'hai fatto tu, non è cernierata come questa base qua, capito? Se fosse cernierata, allora avrei fatto lo stesso lavoro che abbiamo fatto su questa base. Bianco per me. Va bene, Enrica. Sì, beh, certo, mettendoci la cerniera, infatti bastano solo due piedi, non c'è bisogno nemmeno di metterne quattro. Va bene lo stesso, non è un problema, perché no? E stavo dicendo, praticamente vai affiancato vicino all'armadio, dai, ho capito, ci sta bene lo stesso, voglio dire, come spazio ci sta bene nonostante l'armadio. Sì, registrato, attento Sparviero. No Giulio, l'armadio non c'è più. L'armadio non c'è più, adesso la stanza è completamente vuota, non c'è più quell'armadio lì, capito, dove era prima, è dall'altra parte, fronte porta praticamente, in quella rescega che c'era nella porta che ci va giusto, quindi tutta quell'altra parete, dove in alto c'è il televisore a parete, lì c'è la base, capito, lì c'è la base con tutte le radio, che sto chiaramente organizzando perché... sto iniziando adesso a rifare nuovamente le cose. La finestra praticamente è libera, quando apre non tocca da nessuna parte, viene un bel lavoro, dai, mi aveva suggerito un po' Massimiliano così, e quindi ho accettato il suggerimento. Chi è che chiama Sparviero? Avanti. Il Pelsat non ce l'ho io, c'era un amico di Alghero che gliel'aveva dato Massimiliano, non ce l'ho io il Pelsat, io ho il Persipson, capito, quello base col cassone color noce, cioè quello lì. Sicuramente non ti sente nessuno, non lo so, chi è che sente Gianni Capri 2, a parte Giulio che non ti sente? Io lo sento lo stesso. Io lo sento bassissimo, ma quasi niente. Ciao Gianni Capri 2, mi hai sentito, dai, anche se ti sento basso, dai, ti ascolto lo stesso, dai, avanti Massimiliano. Sì, volevo salutare a Gianni Capri 2. Ho detto, con tutta l'attrezzatura che hai, mettici un accordatore di antenna, no? E l'antenna vuole sistemata bene. E una volta che la tiri giù a sistemarla, la sollevi di qualche metro, così arrivi meglio. Vai Giulio. Ok, beh certo. Oppure metti anche un lineare, metti, così arrivi bene anche qua, Gianni. Io lo so che tu mi stai ascoltando, ma purtroppo io non riesco a capire quello che dici, perché arrivi talmente basso, sia di segnale che di radio, soprattutto di radio, che non riesco a capire quello che dici. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti, Luca. Luca, non c'è... Sei rientrato Riccardino? Riccardino non è rientrato. Claudio? Anche Claudio assente. Gianni? Ehi, io già ci sono, dai. Non portando, sono riuscito a beccarne uno. Va bene, dai. No, infatti capi due, adesso come viene il tempo bello, adesso sta piovendo, non fa, ma come vengono le giornate belle, ti conviene metterti, scendere laggiù, l'antenna, fare una bella pulizia, tutto quanto, così poi la vulcanizzi bene, tutto quanto la alzi, vedrai che poi uscirai meglio, non dico fortissimo, ma meglio sì. Vai Angelino! Angelina, è piazzata poi l'antenna grande? Sì, la moto l'ho messa. Come? Ma la mantova? Sì, l'ho messa già da una settimana. E infatti sta arrivando più forte. Sì, lei l'ho piazzata già una settimana buona. Non so di più, ma quattro spinte di più. Sì, la mantova è tutta, perché lì è buona, non si sveglia. Stazionarie come sì? No, neanche una. E allora va benissimo, poi dici tutto aperto, cavolo, meglio di te si muore. Sì, infatti adesso i segnali mi arrivano tutti molto più forti, anche quando c'è propagazione i pannoni se li sentivo tutti prima, quindi che adesso già. Anche io ti arrivo più forte? Sì, se penso anche tu, prima come me sei secco e qualcosa, là. Guadagnato qualche punto e se ne va bene, già va bene Angelini. E chi ti ha aiutato a salirla? No, purtroppo non ha potuto aiutarmi nessuno, ho approfittato che c'era la mezza mattinata di forte di vento, ho fatto un meccanismo per tirare su fare di funzione, ho bloccato il primo mossetto, una volta che ho bloccato il primo mossetto ho sollevato l'antenna e ho finito tutto. Ho tribolato solamente un po' per bloccare un bullone mentre sfilavo, ma del resto non ho fatto nessuna fatica, anche perché ho messo il punteggio, mi sono imbragato, mi ho fatto spinte, ho lavorato in tutta tranquillità e tutta calma, dai, senza strappare e non si dà perso pian piano. E soprattutto in sicurezza, dai, hai fatto bene. Ti hai messo anche le cinghie. Sì, certo, no, il comandante che con 5.000 euro di attrezzatura per imbragature, arrampicata, copertura in pianta, serologia, cattivari, e poi vado a farti quella di stacca, prendo una scala e magari neanche bloccata, no, non se ne parla più, quando la attrezzatura c'è di venire usare. Anche io quando ero acceso facevo invece che anche arrampicata, ma più che altro discesa in corda doppia. Sì, te la fai doppia, sì. No, bene, va bene, ti rimasto già. Kappa, dai. Avanti a chi tocca. Sei entrato Riccardino? Riccardo. Ci sei Riccardo? No. Non c'è, adesso faceva bianco già. Prendeva dopo, dai. Anche io ho cambiato antenna, che è questa qua, è un pochino più bassa della Mantova o Angeli, però anche io mi ho fatto tutto da solo, dai. Stazionarie zero completamente. Bene, bene, dai. Sì, ma credo di radio ti ascolto un po' più forte dell'altra volta, Il segnale viene lo simile all'altro, l'altro giorno che ti ho sentito, ma la radio la tua è anche più forte. Vabbè, che poi comunque ho guadagnato anch'io, che lo potete quello, allo stesso periodo, quindi ho migliorato sicuramente anche per quello. E non dici nulla che l'hai piazzata, te lo stavo per chiedere poco fa. A me sei già. Ehi, allora la stella l'hai piazzata. Ehi, allora per farti una comparazione, Angeli, questa qua è la Mantova, ok? Con un baracchino da 10 watt, 20 watt modulati, toh. Vabbè, sicuramente non mi hanno ascoltato.